Buonasera a tutti, inizia Zardis Magnetics, programma che va in onda in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Ovviamente il programma inizia adesso fino alle ore 21:30 andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, che è ovvero Retribution the Behind Enemy Lines. We'll be right back. come sempre parlare di come le cose succedono, di come le cose accadono, di come far accadere le cose è un rischio. Questa sera continueremo un poco con le considerazioni che avevamo cominciato 2 settimane fa, parlando di Max Stirner, ma lo faremo questa volta nell'ottica, o con la pretesa, di far vedere come in un processo laborioso possa venire incontro, come in una luce livida temporalesca, come subito prima di un temporale possa venire incontro qualcosa che accade. Quindi parleremo non direttamente e di nuovo dell'unico e la sua proprietà, cioè l'opera capitale scritta da Max Stirner, ma faremo qualche passo indietro e dal 1844 ci porteremo tra il 1833 e il 1835 e ci spostiamo da Berlino nella Germania centrale, precisamente in Assia, perché è qui che Georg Büchner scrive, proprio in questi anni, un dramma dal titolo La morte di Danton. Per chi non lo sapesse già, Georg Büchner è stato l'autore di un celebre pamphlet di agitazione sociale, tra le altre cose, Il messaggero assiano. Se si prende in mano questo pamphlet e lo si legge, ci si imbatte nel motto incendiario: pace alle capanne, guerra ai palazzi. Büchner nasce nel 1813, figlio di un medico che seguì Napoleone nelle sue campagne militari e risente l'influsso delle correnti giacobine più radicali, in particolare di Filippo Buonarroti. Con la morte di Danton, Büchner mette in scena in 4 atti una meditazione sulla rivoluzione. La scena è la rivoluzione francese, gli anni seguenti allo scoppio della rivoluzione francese. La vicenda si svolge attorno alla messa sotto accusa di uno dei giacobini moderati, Georges Danton, da parte dei più intransigenti giustizialisti e attorno alla sua condanna a morte. Quindi la morte di Danton ci permette di vedere come la rivoluzione tenda di per sé a convertirsi in tirannide. Nonostante il rivoluzionario tenti di opporvisi, rimane travolto dal processo storico. È un po' la tematica che avevamo toccato, come dicevo pochi istanti fa, nella puntata precedente, quando avevamo presentato il libro, il saggio sulla filosofia deserto. Danton viene ghigliottinato, ma non perché gli umani non siano in grado di combattere la potenza dell'esistente, questo qui è un altro discorso. Nella vicenda di Danton emerge come anche la rivoluzione non può sottrarsi alla norma, al, come dice nel dramma, al si deve. Anzi, anche la rivoluzione stessa si fonda sul dovere, come proprio come le situazioni che vuole abolire. Come abbiamo visto la scorsa volta con Stirner, il dovere, cioè la norma e il diritto, si rivelano astrazioni imposte e rappresentano solo un fantasma di una forza che continuano a sussistere anche quando quella forza, ovvero il potere che ha generato norme e diritto, non esiste più in realtà, e continuando a vincolare comportamenti e docilità per inerzia. Però per Danton, che a un certo punto tenta la fuga per mettersi in salvo, in quanto questo significherebbe nella sua situazione confermare quello che sostengono i suoi accusatori Robespierre e Saint-Just, e cioè che Danton è un traditore che ha cospirato contro la rivoluzione. In più per Danton vi è, oltre al nemico esteriore, cioè questi giustizialisti, anche un nemico più interiore. E in effetti era successo che Danton fosse, diciamo, al potere, si fosse reso complice di delle uccisioni del settembre 1792, quando furono massacrati prigionieri realisti e clericali. Questa memoria di sé con la fuga sopravviverebbe, mentre con la propria morte Danton si procurerebbe un oblio radicale. Quando mette a fuoco questo, diciamo, questa situazione, Danton decide di tornare sui suoi passi, di rinunciare alla fuga e affrontare il processo e la ghigliottina che seguirà. A noi qui stasera basta ricordare che Danton rinuncia a determinare la propria non opposizione a quei massacri del settembre come una libera decisione, cioè prova a convincersi di questa che lui, insomma, per lui è stata una cosa che ha subito, una decisione passiva, diciamo, ma alla fine riesce a scorgere che scorgerne in questa decisione nient'altro che una a lui del tutto estranea fatalità, la fatalità della storia, degli accadimenti storici. Quindi ci stiamo già avviando verso le conclusioni, con Danton che è portato dalle circostanze al cospetto dell'invivibilità della propria vita, cioè la propria vita è diventata per lui impraticabile dopo che è stato accusato di tradimento da un lato e dopo che, cioè, non si è opposto alle uccisioni del settembre 1792, i massacri da parte dei giacobini, ma anche, diciamo, da un esame della propria coscienza o presunta tale, anche opporsi a, diciamo, a queste necessità, fatalità storiche, sarebbe risultato per lui insostenibile, in quanto Danton è, diciamo, delineato come un personaggio, diciamo, è uno a cui piace vivere, insomma, che si non è un, appunto, si prende le distanze radicalmente sia da Saint-Just che da Robespierre, insomma, non è spietato come loro, perché è legato alla vita, alla vitalità. Quindi è portato al cospetto dell'invivibilità di quella che considera la propria vita e alla necessità della propria morte, e alla percezione quindi del suo già essere morto. Quindi Büchner ci presenta in extremis, all'ultima battuta dell'ultimo atto, una radicale alternativa, ed è il personaggio di Lucille, è la moglie di un altro condannato a morte, Camille. La parola di Lucille arriva improvvisa, dopo tante parole, tanta retorica rivoluzionaria, ed è, come scrisse il poeta Paul Celan, è l'antiparola, la parola che rompe con l'alienazione e la depersonificazione. Qual è questa parola? Lucille pronuncia, consapevole di ciò a cui sta andando incontro, e cioè di essere a sua volta condannata, a sua volta ghigliottinata, un provocatorio e liberatorio "Viva il re". E come dicevamo all'inizio, questo finale è come un temporale, come una tempesta, l'affermazione della propria incompatibilità con potere, della propria individualità, unicità radicale. Bene, ricordo che state ascoltando il programma Zardins Magnetics in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle 21.30 in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. Volevo anche ricordare che nell'intervento precedente, tra un intervento, una pausa e il resto, abbiamo ascoltato alcuni brani dei Grandine, band trentina che aveva registrato un CD, aveva fatto uscire un CD nel 2001, che comunque ora proprio quest'anno è uscito un LP compilation in cui raccoglie quasi tutti i loro brani. E adesso anche avevamo ascoltato un brano che di questa band tedesca, sempre di un loro LP uscito nel 2001, e sono i Cluster Bomb Unite. E comunque adesso lasciamo la mia voce per proseguire all'ascolto di questi Cluster Bomb Unite. Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics. Vi ricordo che è un programma curato dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste, che va in onda ogni giovedì in diretta sui 90 MHz dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine. Per questa serata di giovedì 7 luglio vi proponiamo l'ascolto di un estratto da una trasmissione di Radio Onda Rossa del 25 giugno scorso, trasmissione che ha affrontato l'argomento del regime penitenziario del 41 bis. Vi proponiamo nello specifico l'intervento di una compagna che a suo tempo aveva contribuito ad organizzare Pagine contro la tortura e la campagna contro il divieto di lettura imposto in quel regime penitenziario. La compagna ci condurrà in un'analisi precisa di questo sistema di tortura normata, proprio così lei la definisce. Allora, così ci tengo a dirvi alcuni concetti che vale la pena di annunciare. Intanto l'importanza di parlare di repressione e dell'evoluzione dei dispositivi repressivi per capire come si muove la nostra controparte, che è lo Stato, che non ha lo sguardo corto in termini di tentativi di annientamento di ogni forma rivoltosa e rivoluzionaria. Poi ciò che un tempo veniva definito controrivoluzione ora viene definito antiterrorismo ed è incarnato dalla direzione antimafia e antiterrorismo. E ancora il presupposto giuridico del 41 bis è che se ne esce da questo regime di carcere duro solo se si è disposte a mettere qualcuno al nostro posto, cioè solo se si collabora. Perciò, come nei tribunali dell'Inquisizione, si applica la tortura del 41 bis per estorcere confessioni e tradimenti. Infine, prima di lasciarvi all'ascolto dell'approfondimento, tutta la nostra vicinanza e solidarietà va al compagno anarchico Alfredo Cospito, al quale dal 5 maggio è stato inflitto il 41 bis e che si trova al carcere di Bancali, Sassari. Entriamo un po' nel merito, no? Entriamo un po' nel merito del tema del redazionale di oggi, parliamo appunto di 41 bis, cerchiamo nel tempo che abbiamo a disposizione, che sicuramente sarà insufficiente per tutto quello che ci sarebbe da dire, cerchiamo un po' di capire di cosa stiamo parlando, no? Quindi quando si parla di 41 bis, anche tra chi insomma si lotta o comunque si interessa e comunque ha a cuore la questione repressiva, la questione carceraria, in realtà il 41 bis rimane il grande spauracchio, no? Come qualcosa, uno specifico regime penitenziario, innanzitutto iniziamo a definire di cosa stiamo parlando, che nell'immaginario comune fino ad oggi non ci aveva riguardato, no? Una cosa che è lontana dalle nostre lotte, anche perché è stata pensata inizialmente, ora entreremo un po' più nel dettaglio, per una categoria specifica di reati che diciamo hanno un alto disvalore sociale, nel senso che sicuramente sono lontani dalle nostre pratiche di lotta, e che però appunto, come sempre un po' succede, no? Nel senso, proprio quello a cui non ti interessi alla fine diventa un laboratorio, no? di rodaggio, di sperimentazione, di dispositivi che poi gira che ti rigira, ti arrivano tra capo e collo. Comunque questo vale per quando si parla di immigrazione, che sembra sempre qualcosa di altro da noi, poi tutto quello che viene sperimentato lì alla fine ci riguarda tutte e tutti, e in questo caso è arrivato anche il 41 bis, è arrivato il 41 bis anche a colpire i compagni. Quindi io ti lascerei il microfono per cercare un po' di entrare nel merito di questo regime penitenziario, dove nasce, diciamo, e secondo te anche perché è così difficile parlarne. Intanto condivido pienamente quello che hai detto e quello che è stato anche ribadito dall'avvocato precedentemente, cioè che parlare di repressione è difficilissimo, è un argomento che la cui priorità non viene mai data, anche se effettivamente capire come si muove quello che insomma vogliamo chiamarlo controparte, vogliamo chiamarla nemico, è fondamentale, perché se noi abbiamo, direi che possiamo anche dichiararlo apertamente, uno sguardo molto corto, così non è per quanto riguarda appunto quelli che sono i progetti, no, del potere, degli stati, di chi ci governa e di tutto di tutto quello che poi stiamo vedendo da qualche anno realizzarsi sempre più chiaramente. C'è proprio uno sguardo che loro hanno in prospettiva e ci arrivano a quegli obiettivi, a attraverso una serie di passi. In questi passi sicuramente dobbiamo includere anche le evoluzioni, diciamo così, o involuzioni appunto repressive. Detto questo, parlare di 41 bis per i motivi che tu prima hai chiaramente detto è difficilissimo, perché appunto diciamo viene presentato come un regime di applicazione assolutamente necessario a quello che è il fenomeno, diciamo, della criminalità organizzata, anche se dal 2002, attraverso proprio una delle varie modifiche di cui poi magari approfondiamo, è stato anche allargato ai reati quelli cosiddetti per terrorismo. Quindi per esempio dal 2005 tre compagni, Lioce, Morandi e Mezza Salma, e anche Diana Blefari, sono stati posti al 41 bis. Proprio per questo allargamento. Io tengo a precisare una cosa: quando parleremo diciamo di quella che è già citata dall'avvocato, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, io direi che quello che prima veniva chiamata controrivoluzione adesso viene chiamata antiterrorismo, quindi c'è già, diciamo, un passaggio linguistico che è importante da considerare. La difficoltà di parlare di 41 bis, diciamo, io insieme ad altre compagne e compagni l'abbiamo toccata con mano quando nel 2015 una ennesima, diciamo, un ennesimo dispositivo dispositivo repressivo è stato applicato a chi è sottoposto al regime 41 bis, gravissimo a nostro avviso, che è quello della limitazione all'accesso alle letture di ogni tipo, e quando parlo di letture di ogni tipo parlo anche di dispense universitarie, di abbonamenti a periodici, di quotidiani, eccetera eccetera, nel senso che non si potevano, chi era sottoposto a questo regime non poteva più riceverli tramite colloquio, ma solo ed esclusivamente o abbonandosi per esempio a riviste che quotidiani, potevi poi abbonarti a quotidiani, ma non devono essere, diciamo, non devono contenere la cronaca del territorio in cui tu hai vissuto oppure in qualche modo hai, diciamo, commesso atti illegali, ma sono tutte diciamo a carico della persona detenuta. Consideriamo che la persona detenuta ha, adesso non mi ricordo, dai 400 ai 500 euro di disponibilità mensile da spendere. Se si vuole comprare qualunque cosa, è considerato anche i costi il carcere costa alla persona detenuta, e diventa veramente un ostacolo. I libri ne puoi avere un massimo di 4 in cella, e con questa nuova applicazione, con questo nuovo dispositivo, devi chiedere alla direzione l'autorizzazione all'acquisto, e questa autorizzazione spesso ti viene negata perché magari i libri non sono considerati idonei, per cui non è detto che tu possa acquistarli. Quando abbiamo iniziato appunto questa campagna Pagine contro la tortura, in cui abbiamo cercato di coinvolgere anche editori eccetera eccetera, nei nostri giri di presentazione della campagna, cercando proprio di sensibilizzare, molto spesso ci veniva anche detto semplicemente: sì, ma figurati se i mafiosi leggono. Ebbene sì, nel senso, poi se vogliamo ragionare a categorie, ragioniamo pure a categorie, ma i cosiddetti mafiosi sono più di 750 ad oggi, ristretti in 41 bis, credo che ci siano 13 donne e il resto sono uomini, e molti di loro leggono, hanno studiato lì dove hanno avuto la possibilità di farlo, scrivono poesie, e comunque, diciamo, la lettura è una fonte di evasione fondamentale. Prova ne è un libro da cui io insomma ho tratto molte suggestioni rispetto a questo approfondimento, di Pasquale De Feo, ristretto dall'83 e ha passato moltissimi anni in 41 bis, un libro che si intitola Le Cayenne Italiane, Pianose Asinara, il regime di tortura del 41 bis. Those dear hearts and gentle people who live in my hometown, because those dear hearts and gentle people will never ever let you down. No, nel senso che comunque al di là della persona specifica ristretta in 41 bis e del tipo di reato commesso, comunque è sempre importante fare un ragionamento sul carcere come istituzione totale e sul 41 bis come regime di detenzione, cioè nel senso bisogna anche riuscire un attimo a scollare, no? Questi due aspetti e fare un ragionamento su perché definiamo questo tipo di regime una forma di tortura, perché questo comunque è, a prescindere da chi ci sta dentro, no? Lo so che è difficile quando si parla di galera fare questa questo distinguo, che però invece è importante secondo me, a maggior ragione quando si parla di 41 bis. L'altro elemento che, e poi ti rilascio la parola, l'altro elemento che emergeva fortemente dalle tue parole mentre parlavi e che è un grande tema quando si parla di carcere è l'assoluta discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, nel senso che poi è vero che esiste una normativa, è vero che esistono delle disposizioni di legge, ma poi la gestione della vita interna al singolo istituto penitenziario e casa circondariale è completamente demandata all'amministrazione penitenziaria in molti suoi aspetti, diciamo anche importanti nella vita poi di chi sta in carcere, con una selva di domande, domandine, pezzi di carta, attese di risposte a richieste da parte delle persone recluse, che è estenuante, sfiancante, che comunque però rende anche il polso di una gestione sempre più individualizzata del singolo detenuto, no? Assolutamente sì. E a proposito di questo, proprio brevissimo, nel 2009 è stata emessa una circolare che in qualche modo omologava proprio questo regime, per in qualche modo quantomeno limitare l'estrema discrezionalità, no, delle direzioni. Allora, questo regime è una forma di tortura, io la definisco proprio, è una tortura senza neanche forma, ed è una tortura normata. Questa è la cosa più che dovrebbe indignare, scandalizzare, fare incazzare, rendere chiaro verso dove si va. È normata, io non ho ancora concluso una ricerca su quali sono gli altri stati in cui una tortura è normata, fino adesso diciamo non sono riuscita a trovare. Ho trovato situazioni come in Turchia o in Spagna, dove delle cose aberranti accadono, ma non è normata, cioè è normato l'isolamento al quale è sottoposto un detenuto, ma tutto diciamo ricade nell'abuso, diciamo. Esatto, okay. Esatto, ricade nell'abuso. Allora, il 41 bis, diciamo, c'ha un genitore che è l'articolo 90, che era il regime instaurato nelle carceri di Pianosa e l'Asinara, per esempio, ed altri, dove erano ristretti i prigionieri politici appartenenti alle organizzazioni armate degli anni che furono, ma anche chi si era politicizzato. Dell'articolo 90 invece anche le persone più sensibili ne parlano molto, semplicemente perché evidentemente in qualche modo si riconoscono nei soggetti a cui veniva applicato. Dopodiché è diventato, diciamo, con la legge Gozzini, è diventato 41 bis, che era un regime in cui tutto il carcere poteva essere sottoposto in momenti di particolare emergenza, diciamo così, dove magari avvenivano rivolte o delle cose dovevano essere arginate e controllate. Quindi era un regime in cui appunto tutto il carcere ricadeva, che è un po', poi, se vogliamo, continuando l'approfondimento, quello che è avvenuto nel periodo di gestione politica della sanitaria all'interno delle carceri dopo le rivolte, in cui tutti i carceri hanno in qualche modo, diciamo, preso i dispositivi previsti per il regime 41 bis e li hanno applicati anche nelle sezioni comuni. Appunto la chiusura dei colloqui, il plexiglass quando si sono riaperti i colloqui, i processi in videoconferenza. Quindi è un pozzetto al quale lo Stato può attingere quando gli interessa. Nel 92, immediatamente dopo l'attentato e la morte di Borsellino, circa 70 persone detenute nelle carceri siciliane vengono improvvisamente di notte prese e praticamente senza nulla dei loro beni e vengono portati a Pianosa e all'Asinara. Lì inizia, come appunto in questo libro di Pasquale De Feo, l'inferno, nel senso vengono torturati, costretti a fare attività fisica, il cibo conteneva di tutto di più tranne che cibo, ne racconta molto bene, dagli sputi ai vermi a robaccia, e vivevano in un stato continuo di terrore. E anche la notte, diciamo, non potevano assolutamente riposare in serenità, cioè chi parla di 3 ore di sonno, e quindi immaginiamo l'altissima tensione. Questo è durato per svariati mesi. Il carcere infatti viene chiuso nel 98. Perché? Perché nel 92 il 41 bis viene applicato in forma individuale, cioè non è più un regime a cui viene sottoposto l'intero carcere, ma viene deciso in base al titolo di reato o comunque a ciò che le procure, che allora, come oggi direi, visto l'intervento fatto dall'avvocato, regnavano, e i giudici erano assolutamente acquiescenti a quelle che erano le decisioni delle procure, proprio perché si spingeva all'emergenzialità di un periodo, l'emergenzialità del fenomeno criminale organizzato, le procure potevano stabilire a chi darlo. Il 41 bis inizialmente veniva applicato per due mesi, per tre mesi, poi ha subito una serie di ritocchi grazie alla, diciamo, nel 92 appunto era la legge Scotti-Martelli. Qua in questo, diciamo, regime si delinea chiaramente una responsabilità delle presunte sinistre istituzionali, per esempio Di Liberto è stato un altro che l'ha applicato, l'ha fatto applicare anche per quanto riguarda le organizzazioni armate, quelle che loro chiamano terrorismo, e questo avviene nel 2002, cioè nel 2002 c'è un'estensione del 41 bis e viene pensato anche per chi appunto ha commesso reati di sangue politici, ripeto, loro chiamano terrorismo, io lo userò molto raramente. E infatti dal 2005 viene applicato a Diana, a Nadia, a Morandi e a Mezza Salma. Diana la voglio ricordare perché le fu applicato il regime di 41 bis che le provocò un crollo totale psicofisico, nonostante, diciamo, segnalazioni da parte della direzione sanitaria del carcere. Lei era a Rebibbia femminile, allora c'era il 41 bis, non le fu mai riconosciuto questo crollo perché comunque era funzionale all'eventualità che lei potesse collaborare, quindi riconoscerle un'incapacità di intendere poteva in qualche modo pregiudicare la sua eventuale collaborazione. Nadia viene tolta dal regime di 41 bis e Nadia si suicida poco dopo. Questo, diciamo, è uno dei tanti casi di, io li chiamo, omicidi di Stato. Un altro che, collegandomi a quello che dici tu, la difficoltà, no, e quindi comunque riconoscere che è un regime di tortura, vediamo, è recente, a maggio è morto un personaggio assolutamente, diciamo, che non merita alcuna simpatia, alcuna solidarietà, Di Lauro, dichiarato, insomma, il capo della criminalità organizzata di Scampia. Lui muore ed è dal 2018 che lui manifesta serissimi problemi, ha un deperimento anche lui psicofisico, soffre di allucinazioni, queste che sono cose dichiarate dal suo avvocato, che non va più a trovarlo, lui rifiuta qualsiasi colloquio, i compagni di sezione lo sentono gridare e dire cose, diciamo, che non stanno né in cielo né in terra. Ciò nonostante, il regime 41 bis continua a essere applicato ed ecco lì che lui muore nel maggio scorso. Per cui assolutamente, cioè, dobbiamo riconoscere che è una forma di tortura, che è una forma di tortura che, così come appunto è stata estesa nel 2002 ed è stata estesa non solo ai reati di terrorismo, ma è stata estesa anche ai reati di criminalità organizzata, nel senso che adesso il 41 bis può essere applicato a chiunque abbia commesso un reato che abbia qualcosa a che fare con l'organizzazione criminale mafiosa, ok? Per cui c'è un'estensione ed è un'estensione pericolosa a mio avviso, e poi approfondiamo anche questo, perché è quello che può sicuramente, almeno io vedo che è lo scopo per il quale è stato applicato ad Alfredo, per cui ci sarà nella probabilmente, diciamo, l'obiettivo che gli organi repressivi vogliono raggiungere è quello poi di estenderlo e in questo modo di coinvolgere, diciamo, tutti i referenti, tutta l'area di referente di Alfredo. Yeah. Sì, no, allora a parte su questo che stavi dicendo, ovviamente poi se questo è il discrimine, no, e per l'applicazione di questo regime, sappiamo benissimo che le procure, quando si tratta dei compagni, delle compagne, in particolare dei compagni e delle compagne anarchiche, diciamo la questione dell'associazione, del gruppo, dell'organizzazione è sempre il cavallo di battaglia delle procure, no? La base di quasi tutti gli impianti accusatori è cercare di dimostrare l'esistenza di un'associazione, un reato associativo, cioè nel senso provare è un'organizzazione. Quindi se questo è il discrimine, si capisce bene, no, com'è importante questo discorso. Prima di fare una brevissima pausa per spezzare questo discorso, che comunque è denso, nel senso è anche molto impegnativo emotivamente, e parlare un po' più diciamo della vicenda processuale più o meno insomma da cui siamo partiti, vorrei chiederti di spiegare brevemente, senza insomma entrando nel merito che ritieni opportuno, in cosa consiste il 41 bis. Intanto perché la definiamo una tortura? La definiamo una tortura perché diciamo da quel regime non se ne esce se non si collabora o non ci si pente. E questa non è una cosa che diciamo noi compagni e compagne, questa è una cosa dichiarata da chi è uno strenuo difensore, per esempio Caselli, il quale assolutamente dichiara: se non c'è pentimento, se non c'è collaborazione da parte della persona in 41 bis, non c'è un'effettiva cesura con il gruppo di appartenenza, perché solo nel momento in cui quella collaborazione viene effettuata, quella persona verrà rifiutata dall'organizzazione stessa, ok? Per cui voglio dire, è quello che avveniva con il Tribunale dell'Inquisizione, dove attraverso la tortura riuscivi ad estorcere quello che volevi, diciamo così. A estorcere delle confessioni finte, comunque. Quello che volevi, esatto. Quello che volevi. Ricordiamo, quando diciamo questo, che molte persone, oltre diciamo a una loro postura, dignità, nel senso magari hanno anche rivisto ciò che hanno fatto, ma è una questione intima, per cui decidono comunque di non collaborare, c'è anche il fatto, abbiamo anche di questo notizia, e si trova, non è che l'abbiamo noi personalmente, abbiamo notizia che diciamo nel momento in cui collabori, chiaramente tu metti a rischio tutti quelli che sono i tuoi affetti, no? E che vivono fuori dal carcere, e lo Stato, che dovrebbe garantire la protezione ai familiari dei pentiti, molto spesso li accanna dopo un po', quindi non riesce neanche a mantenere questo patto, diciamo così. Quindi i motivi per cui molte, ripeto, sono 750 le persone, non collaborano, sono vari, ok? Non dobbiamo parlare per forza di omertà, no? E di restare legati a nefandezze compiute. Quando dobbiamo ragionare di queste cose, dobbiamo ragionare, secondo me, a mente molto aperta e comprendere molto bene le cose, perché anche pensare che viene applicato alle organizzazioni mafiose, sono quasi tutti del sud, e anche quando ragioniamo così dimentichiamo sempre che il sud, diciamo l'unità d'Italia, è stata costituita su una colonizzazione nel nord nei confronti del sud, un impoverimento delle ricchezze del sud, che è qualcosa che a distanza di secoli resta, cioè e spesso si ha ancora oggi un approccio colonista nei confronti del sud, perché è tanto bello, c'è un bel mare, c'ha delle scogliere stupende e chissà quanto altro, però ci si dimentica, diciamo, di quelle che è una condizione sicuramente di inferiorità economica in cui vive. Per cui diciamo le organizzazioni criminali, la mafia, nacquero inizialmente per sopperire a quelle che sono le mancanze dello Stato, e adesso sono, a nostro avviso, assolutamente integrate. Infatti i fatti di sangue sono rarissimi, pochissimi sono integrate nel sistema economico statale. Arrivo a in che cosa consiste. Allora, il 41 bis, intanto l'isola designata, ci sono 12 sezioni di 41 bis in Italia, l'isola designata però è la Sardegna, guarda caso anche lei una colonia, servitù militari ne abbondano e da qualche anno appunto Bancali, dove tra l'altro oggi ci sarà un presidio perché Alfredo è stato spostato proprio lì a Sassari da Terni, è una delle prigioni designate. Come è stata costruita la sezione di 41 bis? È stata costruita sottoterra, è stata costruita a spina di pesce, nel senso ci sono 4 celle a sezione e che sono messe a spina di pesce in modo da evitare che loro si possano guardare. Allora, dico 4 celle perché la socialità all'interno è garantita solamente in gruppi da 4, ok? In gruppi da 4 che vengono designati, come dicevi tu, assoluta discrezionalità dalla direzione, ma anche assolutamente, diciamo, quel regime è super controllato dal DAP e quindi dalle procure antimafia, ok? Per cui ci sono suggerimenti che arrivano. Queste 4 persone che possono fare un massimo di 2 ore aria e 1 ora di socialità, quando gli va bene, possono farla solo fra loro. A un certo punto, quando la direzione ritiene che c'è un legame nato, immaginiamo stai 24 ore al giorno solo su queste 4 persone, magari un legame nasce o magari no, perché magari non hai niente da dirti, però quando ritengono che ci sia un legame molto forte, a quel punto spaccano il gruppo e lo ricostituiscono. C'è una deprivazione, immaginiamo sottoterra la Sardegna ma anche nelle altre carceri, una deprivazione sensoriale costante, luci accese, i vetri sono, diciamo, si possono aprire le finestre ma poi c'è il plexiglass fuori. Da poco tempo è permesso, grazie a un ricorso fatto da una persona reclusa, è stato permesso di cucinare dei cibi in cella, cioè, se no non è permesso. Hanno un unico colloquio mensile di 1 ora, questo significa che, immaginiamo che molti di loro appunto vengono dal sud, che i familiari dal sud si devono spostare nella comoda Sardegna. Ma infatti anche questo, no? Nel senso, la scelta della Sardegna non è secondo me casuale, non è che secondo me, ovviamente non è casuale, è un'isola, quindi c'è anche l'isolamento insulare, è difficile arrivarci, questo vuol dire è caro, ovviamente è caro e lo sappiamo, e quindi vuol dire anche un isolamento dagli affetti comunque. Assolutamente sì. Il colloquio poi tra l'altro avviene col plexiglass, almeno che tu non sia un minore di anni 12, per cui puoi passare dall'altra parte, superati i 12 anni non puoi più passare, e immaginiamo, diciamo, quali sono gli effetti che scaturiscono nel minore. Se non hai il colloquio, solo dopo 6 mesi però dalla tua detenzione in quel regime puoi usufruire di una telefonata. Attenzione, la telefonata è di 10 minuti anche lì. Il parente, perché solo il parente che riceve la telefonata, come lo stesso avvocato, al quale però la persona detenuta può chiamare più volte, non una volta al mese, si deve spostare in una caserma o nel carcere di riferimento del suo luogo di residenza, oppure di dove appunto esercita la sua professione. Quindi anche quello davvero molto complicato. Non si possono avere libri, non si ricevono libri, la cella ha l'essenziale all'interno, non è possibile leggere giornali di cronaca, non è possibile avere radio o televisioni se non i canali, quelli ufficiali, perché temono messaggi, la posta è completamente censurata e quindi ti arriva, non ti arriva, non si sa, tutta viene assolutamente usata per le loro eventuali, insomma, ipotesi, no? Ipotesi repressive. Non partecipi a nessuna delle attività da lì non ne esci se non attraverso questo passaggio, diciamo, di collaborazione. Il corpo di polizia penitenziaria ha detto è il IGOM, che noi sempre ricordiamo come quelli responsabili di Bolzaneto, ma in realtà nel 2000 non so chi ricorda che nel carcere di San Sebastiano furono a Sassari, furono massacrati le persone detenute e i parenti fuori, e chi c'era lì? C'erano i GOM, i quali, diciamo, i progenitori dei GOM sono, aspetta che qua, gli SCOP, che sta per Servizio Centrale Operativo Polizia Penitenziaria, che erano quelli addetti, diciamo, alle torture fatte al carcere di Pianosa quando furono spostati, diciamo, le persone dalle carceri, appunto, nel 92. Quindi, diciamo, una degna carriera. Durante le rivolte sono sempre premiati questi signori, durante le rivolte sono stati appunto premiati, per cui hanno diciamo un budget che è proprio solo loro, non devono relazionare al DAP se non una volta ogni anno, e hanno proprio ampia agibilità di manovra. I GOM noi abbiamo avuto modo di conoscerli perché abbiamo seguito come campagna e pagine contro la tortura un processo a Nadia Lioce, e compagni e compagne, vi assicuro, è allucinante quello che abbiamo visto. A parte che c'erano delle persone detenute che avevano un processo perché avevano addirittura osato riutilizzare un francobollo, e quindi erano state denunciate da queste signorine dei GOM giovanissime, che hanno un approccio assolutamente asettico, cioè loro non hanno nessuna empatia, per cui sono assolutamente addestrati per essere dei militari. Sì, sì, tra l'altro questa cosa dei GOM e poi anche di altri reparti speciali di intervento nelle situazioni di tensione, li abbiamo visti agire anche appunto durante le rivolte nel 2020, l'abbiamo visti al diciamo, e in molti casi non ci sono stati dei video a riportare le loro azioni. Nel caso di Santa Maria Capua Vetere invece ci sono, e tra l'altro appunto presenteremo in radio presto, la settimana santa, questo libro che è uscito appunto, che ricostruisce la vicenda giudiziaria, sia le torture che poi la vicenda successiva a appunto a quell'episodio. Io farei una brevissima pausa e poi continuiamo. Allora, eccoci qui, torniamo in voce. Mi sembra ci sia un'ultima specificazione sul funzionamento del 41 bis come regime detentivo, giusto? Sì, che viene in prima istanza dato per 4 anni, per lunghi 4 anni, e poi diciamo la revoca o la riconferma ogni 2 anni, ma diciamo difficilmente viene revocato, per cui per prima istanza tu stai in questo regime per 4 anni e non devi per forza essere imputato, nel senso che puoi stare anche in custodia cautelare nel regime 41 bis. Eh sì, questo delle custodie cautelari è veramente un altro tema che richiederebbe un approfondimento veramente a parte, cioè un abuso della detenzione preventiva che è sconcertante in Italia, molto più che in altri paesi anche europei. E poi l'altra cosa è chi richiede il 41 bis, giusto? Sì, l'altra cosa è chi richiede il 41 bis, sono i poteri forti di questo periodo, che è appunto la Direzione Nazionale Antimafia, intoccabile, vive dei suoi, diciamo, delle persone, delle sue vittime. La DNA è diventata appunto Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e appunto vive anche degli ingenti fondi che becca dall'Europa, proprio forte, diciamo, del patrimonio che lei ha di aver in qualche modo col 41 bis sconfitto la mafia, ed è quindi pronta a sconfiggere tutte quelle organizzazioni rivoluzionarie. Diciamo il passaggio di questo periodo è che, se prima appunto era data da, cioè certe scelte erano fatte anche dettate da emergenze emergenze, o comunque le presentavano come tale, ad oggi la repressione sta affinando, diciamo, i suoi dispositivi a fronte di quello che vediamo è, diciamo, un livello conflittuale, diciamo, non altissimo quantomeno, e quindi è tutta assolutamente preventiva. Ma è questo il periodo iniziato anche con la gestione politica Covid, come almeno per la mia lettura, è la decisione dello Stato di ottenere il consenso dalla popolazione, una gestione tirannica dove la ragione di Stato è unica, il discorso di Stato è unico e tutti ci dobbiamo attenere, e lo vediamo come da lì è stato traslato adesso nell'emergenza guerra esterna, che si riflette ovviamente nella guerra interna, per cui tutte le politiche sono volte alla sicurezza, al controllo e al consenso, e in questo ovviamente la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo c'ha gioco molto, molto facile, no? E quindi abbiamo, diciamo, i carnefici sono loro, cioè chi applica il regime della tortura sono coloro, e guarda caso per esempio Sparagna, che era il PM di Scriptamanent, ha fatto carriera ed è passato, adesso fa parte della DNA. Per giustificare, diciamo, le loro torture, ovviamente loro hanno bisogno di definire il nemico pubblico, no? E come passa? Passa attraverso la mostrificazione del nemico, la mostrificazione che è spinta dalla maggior parte dell'informazione mass mediatica, ma purtroppo devo dire a questo una parte di responsabilità l'abbiamo tutti, no? E tutte, proprio nel non voler analizzare quello che sta accadendo e lasciarci prendere da questa, diciamo, questa spinta, no? Che è voluta e che emotivamente ci colpisce. E quindi, come diceva prima l'avvocato, i compagni adesso sono accusati di strage, una strage eventualmente che in altri tempi veniva chiamato attentato, ok? Adesso è diventato strage contro le politiche dell'immigrazione applicate dallo Stato, e caspita, ricordiamo le stragi che avvengono proprio in quel campo, che avvengono in mare, che avvengono nei confini di terra, sono stragi continue. Ebbene, loro sono riusciti a portare a questo reato, a stravolgere completamente il senso del reato, quando le stragi le ha sempre commesse lo Stato con i suoi servizi segreti. Ad oggi viene la violenza, diciamo, esercitata da quei compagni che hanno anche dichiarato. Alfredo era stato anche accusato per aver è stato condannato e l'ha rivendicato per aver gambizzato Adinolfi, responsabile dei progetti nucleari, diciamo, quindi anche lì di cosa parliamo a fronte, diciamo, dei disastri ambientali. Questi ripropongono queste cose e fanno soldi, no? La Leonardo con le sue vendite e costruzioni di armi che servono poi vengono utilizzate nelle guerre, o forse il contrario, cioè garantire delle entrate così poi si fanno le guerre per liberarsi di tutto l'esubero di dispositivi di armi militari che magari sono un po' vetuste. Adesso andiamo incontro sicuramente a nuove tecnologie. Quindi voglio dire, le stragi compiute in ambito del lavoro, ricordiamo anche i ragazzi morti per questa benedetta riforma della scuola, no? Dove i ragazzi muoiono perché devono prestare lavoro volontario senza nessuna garanzia. Insomma, di stragi lo Stato ne ha pieni i propri cassetti e ne ha piena responsabilità, e loro, per mostrificare e giustificare l'applicazione del regime di tortura, spostano quel contesto, le responsabilità ai compagni. Ora, in un periodo appunto in cui il consenso è quello che aiuterà i progetti dello Stato, contribuirà a, diciamo, a far sì che li possano portare avanti, lo vediamo, no? Viaggiano proprio come caterpillar, cioè asfaltando qualunque cosa, non si pongono neanche più il problema del numero residuale di votanti, vanno avanti, non importa nulla, d'altronde diciamo di contrapposizione ce n'è molto poca, no? I rapporti di forza sono molto bassi, per cui in qualche modo se lo possono permettere. Immaginiamo che cosa può essere appunto quello che è l'anarchismo, che è una diciamo che fa della teoria pratica e che comunque, diciamo, si pone davvero come nemico dell'istituzione statale, lo è proprio geneticamente, no? E continua a produrre, diciamo, non solo diciamo proposte alternative a quello che è, diciamo, a mio avviso, poi veramente, vabbè, mi considero le uniche vere proposte alternative a quelli che sono i disastri che sono programmati, ma anche, diciamo, a indicare in un modo o in un altro chi sono i veri responsabili di queste stragi, delle morti, dei disastri ambientali e di tutto quello che ho detto fino ad ora. Per cui l'applicazione del regime di 41 bis ad Alfredo, oltre che sicuramente, come dicevamo prima, il reato di istigazione a delinquere è stato provato e si continua a provare in vari processi, no? Proprio perché appunto è quello che in qualche modo ha anche valorizzato per loro l'applicazione del 41 bis. Sono finiti, diciamo, fino adesso negli ultimi anni moltissimi processi sono stati fatti ai compagni anarchici e portavano avanti il giochetto, diciamo, dei compagni che si muovevano in ambito sociale, quindi erano i buoni, quelli che si muovevano in ambito insurrezionale, quindi un po' cattivi, e quindi un po' come fa sempre, no? Dividendo e individuando in categorie. Adesso questo gioco, a mio avviso, è finito. Quello che è importante è appunto asfaltare le idee rivoluzionarie, perché sono pericolose in un periodo in cui lo Stato, diciamo, ha perso di credibilità rispetto a quella che è stata sia la gestione politica della emergenza sanitaria e sia quella che sta portando avanti di guerra, ha perso credibilità, per cui delle ipotesi di altro possono essere messe in campo e forse possono essere anche ascoltate. Adesso il tentativo attraverso tutti questi piccoli processi è di criminalizzare l'intera area anarchica, per cui se fino ad ora chi portava solidarietà ai prigionieri in 41 bis veniva tacciato di solidale alle criminalità mafiose, adesso chi porta solidarietà al prigioniero anarchico Alfredo Bonanno sarà tacciato di solidarietà, e quanto più se chi porta solidarietà sono proprio i compagni e le compagne anarchiche. In tal modo cercheranno, diciamo, di arrivare a quello che è il loro obiettivo, a mio avviso, e cioè fare proprio le la sovrapposizione di anarchismo uguale terrorismo, e quindi attraverso Alfredo riuscire a realizzare l'obiettivo che è quello di asfaltare, diciamo, le forze rivoluzionarie che ci sono. Per chiarire o comunque un esempio, diciamo così, che secondo me è emblematico, in un processo alcuni compagni anarchici a Trento, addirittura il pubblico ministero nella sua requisitoria ha detto: se fossimo qui a giudicare componenti del terrorismo islamico, potremmo direttamente passare a definirne le pene. Nei loro confronti, quello degli islamici, infatti, il processo di costruzione del nemico è stato completato e portato a definizione. Ora, chi appunto deciderà come si sta facendo, di cercare di solidarizzare con Alfredo, sarà facilmente passabile per facente parte, diciamo, dell'organizzazione di Alfredo, di accogliere le sue istigazioni a delinquere, e quanto più stretto, diciamo, sarà questo giro, tanto più facile sarà criminalizzarlo. Quindi questo è un po', ripeto, un approfondimento che facciamo per sensibilizzare e far capire che cosa, qual è il peso di questa situazione. Ultimissima cosa, suggerisco delle letture, che allora, a parte quella che ho detto prima, appunto, che a cura di Pasquale De Feo, Le Cayenne italiane, Pianosa e Asinara, il regime di tortura del 41 bis. Poi c'è Alessio Attanasio, una pubblicazione che come Pagine contro la tortura abbiamo molto utilizzato, perché attraverso lui riporta tutti i ricorsi fatti contro il 41 bis, perché è l'unico modo che aveva per poter descrivere che cos'è quel regime e parlare di atti pubblici, e si chiama L'inferno dei regimi differenziati. Poi abbiamo Elton Calica, o Calica, La pena di morte viva, e poi Maria Rita Prette, 41 bis, il carcere di cui non si parla. Ok, quindi sì, è un po' difficile andare a dire qualcosa in questo momento. L'unica cosa che mi colpiva, beh, in realtà pure su questo c'è tutto un altro tema che... ma mi sconvolge sempre. Mi leggevo appunto in questi giorni delle cose sulla vicenda processuale specifica e sulla montagna di le migliaia di ore di intercettazione su cui si fondano poi queste grandi impalcature giudiziarie. È veramente una cosa, un'invasione della vita privata, delle vite, delle relazioni, che mi lascia sempre veramente incazzata come una biscia. Sono stati trovati apparecchi e cimici sui letti dei compagni. Okay, quindi veramente questo per dire che comunque diciamo, continuare a trattare questi temi come qualcosa di altro da noi per me continua a essere incredibile. Io, detto questo, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti chiuderei questo approfondimento, che comunque trovate in podcast sul sito della radio, perché lo stiamo registrando. Ovviamente è un invito a continuare a riflettere su questi temi, a organizzarsi, a costruire le lotte anche quando sembra difficile, anche quando sembra sempre più impossibile organizzarsi contro questa repressione, che però è in corso, che al di là della nostra vista corta in realtà ha una, diciamo, prospettiva molto lunga, ragiona molto nel medio-lungo periodo, approfitta anche delle fasi di crisi e di supposta emergenza in cui l'attenzione è spostata su altri temi per fare dei passi da gigante. L'abbiamo visto con le rivolte, l'abbiamo visto con l'abuso delle videoconferenze, insomma c'è tanto su cui riflettere, per cui su cui organizzarsi e per cui lottare. Io penso che io non ho nient'altro da aggiungere. Tu hai qualcosa da aggiungere? Sì, solo collegandomi, se non lottare, qual è l'alternativa, direi. Perfetto, vi lasciamo con questo interrogativo. Bene, stiamo ascoltando in sottofondo, e abbiamo ascoltato adesso durante questi interventi questa band trentina, gli Incline, da questa loro unica uscita che hanno effettuato nel 2012, che si chiama Anche Oggi con un Nuovo Colore. E volevo ricordare che adesso questo intervento, insomma un po' questa intervista che abbiamo ascoltato, un po' lunghetta, è stata ripresa, estrapolata da un programma di radio Onda Rossa che era stata pubblicata insomma, è stata fatta il 25 giugno scorso. E tra l'altro chiediamo scusa se ci siamo ripetuti dallo scorso giovedì, sempre con questa intervista, ma nel dubbio noi l'abbiamo mandata anche oggi perché abbiamo scoperto che ci sono stati dei disguidi tecnici, e tant'è che il programma era stato registrato e non, diciamo, come dire, non pervenuto. Quindi nel dubbio, dato che insomma un'intervista è molto interessante, l'abbiamo rimandata oggi sperando che sia tutto ok. Chiediamo scusa a chi l'aveva già ascoltata, ma noi siamo certi che qualcosa la volta scorsa le è sfuggita e quindi oggi ha avuto la, insomma, ha avuto la possibilità di riascoltare tutto bene. Voglio ricordare che questo programma, che siamo giunti al termine, è Zardins Magnetics, ogni giovedì in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21.30. Potete riascoltare questo programma su zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Potete scrivere con la posta elettronica liberetutti@autistiche.org, oppure in forma cartacea Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. E inoltre noi abbiamo anche Telegram, digitando t.me/zardins. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, sempre qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21.30. Ciao a tutti. E dovevamo farvi ascoltare un prossimo pezzo, dato che abbiamo sforato, ma siamo ancora in tempo ad ascoltare un ultimo pezzo di questi Incline dal Trentino. Ciao a tutti.